siamo stati ex colleghi tanti anni fa, quando io lavoravo con un'azienda farmaceutica, e quindi si è ricordato di me, ma ci sentiamo. Adesso vediamo, non so se ci sia un Torino, se c'è qualche posto dove mettere un palo, allora sarei a cavallo, capito? Metto la J-Pol, che è un, diciamo, un pezzo unico, e buonanotte, la metto lì, non la tocco più, metto un buon cavo, capito? Ho la possibilità anche di farlo scendere, che non si veda in facciata principale, e quindi poi sono pochi metri, capito? Non è che si vede. Speriamo bene adesso già. Poi se hai problemi di macchina eccetera, magari ti vengo a prendere io una mattina, anche una di queste mattine, tanto io se accendo, fai la chiamata e sali e ci prendiamo qualcosa insieme, facciamo quattro chiacchiere, già mangiamo e fa piacere. A posto. Adesso ne ho due di macchine, non sono che averne una. Adesso ne ho due perché c'è anche quella di mia figlia che è partita a Bologna e l'ha lasciata qua perché ha preso l'aereo. L'unico piccolo sono io qua, buonasera. Ma tu stai facendo bassissimo. Hola, va meglio? Alzate il volume adesso perché sennò non ti sentivo bene, mi sentivo basso. Comunque, guarda a vedere, va meglio già adesso? Adesso sì. Gatta, buonasera a tutti, l'unico piccolo che è più piccolo sono io. Ma tu, ma cosa c'era? Il volume abbassato? No, c'era il volume del microfono che era giù, era. Adesso si sente, è cambiato il giorno. Sono in compagnia di Claudio, di Fabrizio e poi di... non mi viene no. Sto uscendo di testa. Carlo e Salvatore. Ehi, a Carlo e Salvatore, dai. Scusate, ma sono un po' drumito. Oggi sono un po' stanco. Mi sei tasato il lavandino e stavo lottando, cazzo, con questo lavandino, per carità. Le ho trovate i cuscinetti. Cosa? Ho trovato i cuscinetti, li ho ordinati. Ah, bravo, vedi. Basta cercarli su Google, trovi tutto. Hanno tutto su internet. Sì, no, mi ha fatto piacere che è proprio il modello compatibile con le mie Corsair. Evidentemente proprio il prodotto originale è una porcheria megagalattica, però l'audio è veramente eccezionale. E poi sono cuffie gaming, ne hanno venduto tonnellate. E ho trovato questo modello compatibile che di un materiale sembrerebbe qualitativamente migliore, e quindi venerdì, insomma, per farla breve, venerdì mi dovrebbero arrivare. Tra l'altro anche io uso quelle per cantare. E dove appoggia in testa, si è tutto sgretolato, dopo poco tempo che ce li avevo, si è tutto sgretolato, si fa tutto a pezzettini e ti cade in testa, se non ti va sempre di capire. Esatto, ma comunque, problema risolto, io ho le HS50. Ah, ma sì, le ho anche io, però ce l'ho da una parte, ne ho preso un altro paio, lo pagate 80 euro, mi fa. Il prezzo non me lo ricordo, però sono contento, insomma, almeno posso riprendere a usarle, perché l'audio mi piaceva proprio. Sì, io le uso per cantare, quelle cuffie lì, vanno benissimo. Babu, dai, riprendi pure tu, Gianni. Antonio, vai, tocca a te, poi c'è Carlo, salutatemi Claudio quando rientra, io continuo a fare roba qua. E Carlo, prego già. E anche Fabrizio c'è. Fabrizio, ci sei, sei rientrato? Fabrizio non risponde. Riprendi Antonio. Tutti voci, Gio. Carlo, ci sei almeno tu, se no vada chi l'ha visto. Ehi, sono qua già, sì, no, stavo lasciando spazio agli altri. Antonio, ci sei? Aspetta che facciamo riprendere Antonio. Magari c'è il bambino che sta facendo il discolo e... il bambino lì, capito? Ehi, Fabrizio, ci sei? Scusate, no, non c'è problema, capiamo la situazione. Gappa, gappa, gappa, ora. o no? No, chi è che ci aveva preso la postata? C'era un innesco, vabbè, comunque va a piccarlo, riprendi tu. Sì, già neanche io ho sentito. Innesco, boh, sembrava una portante forte, boh, però non lo so. E nutami, io qua adesso facendo un po' di cose di casa, dai, e avevo peso tutta una serie di camicie e ne sto approfittando adesso che c'ho qualche giorno per risparmiarmi tutta la robina. Meno male che già ce ne passano tante di camicie, però essendo bianche, capito, uno o due giorni massimo e poi la devi cambiare. Purtroppo è così, ne avevo una decina tutte pronte al lavaggio, adesso infatti ero in terrazzo, ho ritirato tutto, domattina quando mi alzo, di buona lena, in un'oretta, metto tutto in armadio bene stirato, c'ho un super ferro da stiro e fa veloce, di quelli a vapore, è perfetto, e quindi mi sono anche specializzato nello stirare, oltre che a fare tante altre cose. A te Gianni. Beh, uno si arrabbia, Carlo, come hanno fatto tutti, anch'io ho fatto così. Vabbè, io prima cucinavo solo a casa, è la verità, ma poi mi sono adattato a fare tutto, e lo faccio con scioltezza, non mi metto problemi, metto la musica e faccio quello che devo fare, spolvero, stiro, faccio. Stirare non mi piace tanto, cerco sempre di stenderla bene la roba, le magliette, le tiro bene, in modo che non debba stirare. Sì, ma purtroppo io ho le camicie di lavoro e ancora ne ho altri 5 anni e mezzo e me li devo fare, capito? E piano piano passeranno anche questi 5 anni e mezzo e cosa ci vuoi fare? E un po' di buona volontà ci vuole, tutto lì. Sì, ma io già sono abbastanza ordinato, quindi mi organizzo, un giorno lo dedico a fare il bucato, poi a stirare, poi gli altri giorni mi sono comprato l'aspirapolvere, ho preso il Dyson, quello che fa anche da lavapavimenti, una bomba che è quello, e niente, mi sono dovuto riorganizzare in tutto e per tutto, però sono a posto adesso e quindi adesso vediamo di fare la stazione, se ci riesco, se riesco a mettere l'antenna sul tetto sono a posto, capito? Almeno per la 27, capito? 27 e l'SSB, capito? Qualche puntatina là e niente, se ci riesco spero di poter mettere la J-Pol, capito? Così è unica quella lì e non so neanche lì a salire più di tanto. Ehi, Carlo, se ne hai questa confidenza con quello lì, glielo accendi, glielo dici che tu c'hai questa passione, non so se lui lo sappia, ti fa passare, dai, se c'è questa confidenza, non penso che ti faccia problemi. Tu vai a fare un'ispezione, guardi come puoi metterla prima e poi sali a colpo sicuro. Esatto, infatti farò così, entro piano piano, capito, senza fretta e poi speriamo bene, da comunque, tutto sommato. Bene Meda, quindi importante è che mi faccia sentire adesso, comunque a Claudio gli arrivo 9, capito, come segnale, a te arrivo bene, Salvatore lo stesso è qua in zona Cappuccini, quindi linea d'aria siamo anche molto vicini, quindi però mi sentiva bene anche Fabrizio, Antonio al latte dolce mi sente bene lo stesso, quindi per fare 4 chiacchiere almeno per adesso sono sistemato, poi piano piano vedremo di migliorare. A te il microfono Salvatore. Salvatore mi pare che sia impegnato, che sta facendo roba. Fabrizio ci sei? Ehi, scusate un attimo che sto sistemando il dipolo, un attimo. Cappa. Riprendi, c'è entrato Antonio e Carlo, dai, vai per chi vuoi. Vabbè dai, riprendo io Gianni, perché adesso mi preparo un po' la cena, rimango in ascolto, però non potrò parlare per un po' perché dalla cucina sono un po' lontanino adesso, capito? Però già vi ascolto. Se ci siete ancora tra un 20 minuti poi già mi faccio risentire. Buona serata a tutti, mi ha fatto piacere risentire un po' tutti qua il canale 10 è ancora vivo, meglio così, speriamo bene, dai Gianni, poi già ci sentiamo anche al telefono quando vuoi, non ci sono problemi. Ciao Fabrizio, Salvatore, Claudio se sei ancora in ascolto, Antonio, salutoni, ciao. Carappa, ciao Carlo, dai, buona carica quando la fai, quando vuoi chiamare chiama, anche domani mattina io sono libero. Avanti a tu, boh, non riprende nessuno, Fabrizio. Io ci sono, per Riccardo, che è quello che risponde. Scusate che stiamo facendo un Gabriele, che mi conviene, tutti rigorosi. Va bene, a tu, Claudio ci sei, Claudio si è moscato. Ma stanotte devi fare No, Giovanna. 8, 9. tutti. Buon raga, io vi saluto, devo portare giù il cane, dai. Mi ha fatto piacere risentirvi. Fatevi sentire ogni tanto. A me fa piacere ascoltarvi, dai. Quando volete non c'è problema. Ciao Salvatore, ciao Fabrizio, Pomponio, tutti gli altri amici che sono in ascolto, dai. Antonio e via dicendo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ce la risentiamo. Ciao, Claudio ha detto un quarto d'ora fa che stavano andando a fumarsi una sigaretta. Secondo me si sta oramai arrivato a metà pacchetto. Sono contento, sto uscendo proprio con una manciata di vasche con il con la KF e con il dipolo. Sta funzionando bene. Per quella, no, sinceramente oggi io riaccendo, finalmente mi sono dedicato un po' di tempo a fare radio, ma sinceramente. Era giusto per allora già sempre ero qui, mi prende la sono caricato dopo qualcosa. Ho trovato i cuscinetti e li ho ordinati per le aspetta che faccio una telefonata a mia moglie a vedere cosa deve fare, a se mi tocca uscire, ma non c'è solo. Ecco che lì gli fa bene passeggiare, almeno dimagrisci. Vado, senti, io devo lasciare. Devo fare altra roba. Ci sentiamo, dai, ci aggiorniamo, per domani più tardi se il stato un attimo accendo e prova a fare il chiamato. Eia, ciao pa, salutami a tutti. Ci sei, sì. Fabrizio. Sì, dimmi. Aspetti, passo a... No. Il figlio di Giovanna, così almeno era una mano in pratica fare una cosa, va, due minuti, adesso lo passo. Avanti. Sei sul canale 7? No, io qua siamo sul 10, siamo... Cosa vuoi fare? Dopo siamo sul canale 10, no, adesso lo seguo io. Allora, qua siamo su canale 10. Ok, ci sei. No. Puoi usare quello che vuoi tu, bisogna fare su canale 7, che in pratica in PMR è un discorso diverso. Tutto lì. Hai capito? Hai capito? Parla con lui e basta, non c'è problema. Daniel, Daniele, mi senti? Sì. Ola, ola, ola, ola, ola, ola. Daniele, ci sei? Chi è? Chi è? Ciao, Anto, buonasera. Mi hai sentito? Stavo chiamando a Daniele per mio nipote, più che altro. A dargli una mano, perché... Capito? Più che altro. Tutto lì. Ah, ok. Ma è dato solo il segnale, ho comunque. Sì, sei 9.30 quasi. Sei a posto. Vabbè, sto facendo un anello. Già, vabbè, a voglia. Cappa, dai, è tutto molto male. Da 9.20 a 9.30 mi sono un bambino. D'accordo, d'accordo. Cappa, beh, anche lui, poverino, c'ha freddo. E invece, no, invece funziona. Io pensavo, invece no, mi stavano poca potenza, un apparecchio, io pensavo che c'era una mano la scarica, invece no. Cazzo si scende. Non capita, aspetta un attimo. Fabrizio, ci sei? Fabrizio? C'è qualcuno che sta chiamando, può essere IS0, IS0. Siamo sul 10. Ho capito. C'è qualcuno che sta sblatterando, si sente. Io siamo sul 10 però. E ci avesse pronto il suo battacco, quando va a terminare un po' a girarlo. Oggi patate al forno, con la rete, so. C'è qualcuno che mi sta sblatterando, cioè. Bocchi sugli S0.